espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el Estado winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Ni España con espadas, ni Chile con balas han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate: tener el territorio para dárselo a un magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza. Y por la televisión, lo que te dice la prensa es que la reacción del mapuche es violenta. Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la Araucanía a su historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta y te mientes sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. Per un mapuche morto mille si alzeranno. Non è semplice oggi fare questa trasmissione dopo tutto quello che ci stanno facendo arrivare alle orecchie, veramente mitragliate di notizie, allora presi anche dall'emozione, prese dall'emozione, bisogna saper fare anche la differenza di tutto quello che sta accadendo, di tutto quello che arriva. Odio e fuego, questo, oppure Vitralen in Mapudungun, che significa stare in piedi, stare fermi in piedi. Loro sono De Violencia, Contada Barahona. Volevo un po' aprire con questa canzone che credo, oltre ad essere un video bellissimo dove si vede tanta resistenza mapuche, credo che sia un po' la sintesi delle emozioni che abbiamo oggi. Che abbiamo un po' tutte coloro che hanno seguito questa orrenda storia della desaparizione di Santiago Maldonado. Sì, perché ancora, finché non ci saranno le prove forensi, che quel corpo sia esattamente il suo, per quanto, ripeto, non è che dormiamo da piedi, che crediamo alle favole. Cerchiamo di farvi capire perché ancora alle 17:11 di oggi non possiamo dire che Santiago Maldonado è stato trovato. È stato trovato un corpo che già molti stanno dicendo che è quello di Santiago. Beh, bisogna aspettare. Quando le persone spariscono per mano dei poteri forti, Biancaneve può anche avere la faccia di un maiale, ma te la faranno sempre passare per Biancaneve, perché i poteri forti sono loro. Non è che noi abbiamo Repubblica, Il Messaggero, in Argentina non ci sono questi giornali servi del governo. E allora oggi dichiarare che Santiago Maldonado è quel corpo lì, che il corpo trovato nel fiume è quello di Santiago Maldonado, oggi è un lavoro infame. Lo so che è difficile da capire, ma è così, perché si sta semplicemente facendo il gioco di quello che il governo vorrebbe dire, vorrebbe fare, vorrebbe subito lavarsi le mani di questa storia. E allora io credo che, come sia giusto, invece, siccome le stesse persone che scrivono e parlano e ci fanno arrivare le informazioni fanno girare delle fotografie vergognose, perché le fotografie che girano di quel corpo, che è vero assomiglia molto a Santiago, ci azzitta a tutti, non dovrebbe vederle mai nessuno. Non dovrebbe vederle mai nessuno. E se la famiglia vi chiede oggi di portare rispetto ed aspettare, io mi chiedo, voi, no? Bianchi, italiani, primomondisti, ma chi pensate di essere invece per spiattellarla sul vostro diario di Facebook? Questa è una cosa che mi fa venire le lacrime dalla rabbia, dall'odio, mi accende veramente il fuoco dentro, perché parliamo e siamo veramente la sintesi di un mero becero bianco neocolonialismo, e questa cosa mi fa veramente schifo. Non ho paura a farmi dei nemici dicendolo, perché insomma, lo sapete, non ho mai peli sulla lingua, ma questa cosa è stata proprio peggio del sopilote, siete peggio veramente dei mangiacarogne a fare un gioco del genere. Non so se è chiaro questo. Siamo tutti freelance improvvisati, no? Siamo tutti freelance, tutti abbiamo bisogno di fare informazioni di cose di cui fino a ieri non sapevamo niente. Eh no, compagni e compagne, non si fa così. Pensate se avessero fatto lo stesso di Vittorio Arrigoni, eh? Eh? In quanto vi siete incazzati quando ci hanno fatto vedere la testa sanguinante di Carlo Giuliani, eh? Pensateci un attimo, fatevi tornare quell'odio, perché facendo questo state facendo la stessa identica cosa. Ellos pretenden ponerle piel de oveja a la ferocidad de su ambición. Discutían sobre la paz y la seguridad de las naciones. Después de un par de negociaciones en que a Don Dinero le piden permiso, las promesas de la campaña no serán más que recuerdo impreciso. Él cobra el tesoro de Chile y los tesoreros son millonarios. Se necesita de mucha energía para explotar tanto yacimiento milenario. Lo más extraordinario, que el tesoro no queda en casa por unos giles legisladores que se pasaron al pueblo por la raja. Y aunque yo estaba en la cuna y no viví en la dictadura, igual siento las secuelas de esa constitución vacuna. Porque nos dejaron su ley y se llevaron la justicia. Fin a la condena mediática que tergiversa la noticia. Nunca fue crisis, fue una estafa, lo sabe toda la región. Por algo todos se exigen gratuidad en la educación. Que ser gendarme no sea una opción, la prisión no es la solución. Oggi preparate, perché questa trasmissione sarà così, con botte di veleno che mi prendono. E allora cerchiamo di capire perché, per quanto sappiamo che sarà difficile che Santiago riapparirà vivo, l'abbiamo detto tante volte, per quanto sappiamo quanto è difficile che diranno che quel corpo non è quello di Santiago, perché vi ripeto, non dormiamo da piedi, si dice a Roma, non crediamo nelle favole, ma sappiamo qual è il corso per arrivare alla verità e alla giustizia, e non è quello che si sta facendo adesso. Tra l'altro, veramente i social media ci aiutano in autolobotomizzarci, ma questa è storia vecchia. Allora, che succede? Intanto io direi che, se volete avere delle notizie, non ascoltate me, perché io non sono nessuno. No? Quello che io dico lo dico dalla parola del sito della famiglia di Santiago Maldonado, che insieme alla vocera che avete sentito da questa radio, Soraya, che è una delle portavoci della comunità, per quanto mi riguarda sono le uniche voci attendibili. Non ce ne sono altre, perché chiunque altro parla per sé, parla per informazioni che non ha, oppure parla per le informazioni del governo, e ricordiamoci che il governo è il colpevole. E allora io quello che vado a dirvi lo prendo da un sito che è molto semplice, www.santiagomaldonado.com, che è il sito che è stato fatto dalla famiglia e dagli amici della famiglia per dare informazioni, per aggiornarli, per dare i comunicati, per mettere i video su quello che è successo, per dare un'altra versione rispetto a quella governativa. E poi, come vi ripeto, c'è le varie reti mapuche che comunque stanno zitte finché non arriva la voce dalla comunità, e credo che questo sia un po' abbastanza significativo rispetto alla stampa argentina che, tra l'altro, l'abbiamo detto mille volte, se è vero che Macri è un grande Berlusconi, i loro giornali e le loro televisioni, i giornali argentini e le televisioni non sono altro che il nostro Repubblica, Messaggero, Corriere della Sera, Rai e Mediaset. Io, guarda, approfitterei della voce di Mariano, che è argentino, perché sennò poi mi sembra che io me la canto e me la suono, ma tu mi confermi questo, no? Soprattutto nella misura in cui, ricordiamo, il 22 in Argentina si vota, e quindi forse dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello d'attenzione. Sì, questo è lo che mette più nel buio, fa ancora più scura la situazione, perché stiamo a giorni soltanto di una nuova elezione, quella di termine medio, no? Quella che deve essere di alcuna forma una valutazione del governo di Mauricio Macri, e questo veramente fa tutto più strano, per dire strano soltanto la perché sei una persona educata. Sì, soltanto perché, no, magari la mancanza di parole in italiano o veramente la situazione, ma che rende tutto un po' più pericoloso, sì, insomma, sì, poco trasparente. Questo sicuro, questo veramente la parte più scura. L'Argentina per tanti è diventato veramente un paese pericoloso, ed è pericoloso adesso magari di fare una mobilizzazione come si voleva fare ieri. Su quello che dici tu, il rispetto sempre alla famiglia, e il sito santiagomaldonado.com è il sito di riferimento obbligato per vedere cosa dice la famiglia, per vedere cosa chiede e per rispettare la loro volontà, nel senso di non condividere queste foto, come dicevi tu, correttissimo. se si fa apposta quello di condividere quella foto, già non abbiamo cosa parlare, mi sembra, con quella gente. Esatto. Se si fa per sbaglio, ragazzi e ragazze, capite cosa si fa. No, ma abbiamo quando... anche la decenza da una cosa del genere di dirsi scusa, ho sbagliato. Cioè, io ho scritto a tante persone in questi giorni, sono impazzita perché sono matta, ma già lo sanno. Perché non riuscivo proprio ad accettare questo dover dire ieri è stato trovato il corpo di Santiago Maldonado. Perché no? Perché è anche giusto. Solo un titolo che dice questo, io l'articolo neanche lo leggo, lo reputo falsità e carta straccia. Perché non si può fare un titolo dove è scritto è stato trovato il corpo di Maldonado e poi fare un articolo in cui si dice beh, effettivamente non si sa, ma figuriamoci se diranno un'altra cosa. No, non si fa così, questa non è informazione, questa è merda. Chiaro? Non si fa. E se iniziamo a fare quello, noi siamo parte di quella logica. Del gioco del governo, è giusto, perché è giusto vi quello. Ripeto che qui i sequestratori sono la gendarmeria e la gendarmeria è il braccio destro del governo e il governo poi lo andremo a dire perché io ci tengo, non ci fermiamo al governo, perché se abbiamo passato mesi a dire che il governo di Cile e d'Argentina sono asserviti ai poteri economici, oggi... e lo ripeterò fino alla morte, il primo responsabile di quello che è successo è Luciano Benetton, che non è un presidente, non è un sudamericano, è solo un porco manager come ce ne sono tanti, che ha comprato 900.000 ettari e tiene probabilmente il prodotto interno lordo dell'Argentina al cappio, motivo per cui diciamo la politica si asserve e si inchina al suo mando, così, no? Così importante che si permette avere uno stato nazionale o due, possiamo dire, tra Argentina e Cile, il suo servizio, sì. E che al suo servizio dentro veda dei commissariati di polizia. Giusto. Quando ieri ci hanno raccontato che dopo il ritrovamento di questo corpo già qualche camionetta entrava nella comunità a dare fastidio, a molestare, a svegliare la gente di notte, non stiamo parlando di camionette delle polizie. Stiamo parlando di camionette civili che spesso comunque non è che insomma vengono da questi commissariati dove poi non è che possono andare a fare queste azioni con le macchine di polizia e quindi usano le proprie macchine civili, ma dentro ci saranno quelli che poi la mattina torneranno nella comunità vestiti da poliziotti. E questo è un ricorso storico che oggi è in Argentina, ieri era in Colombia, probabilmente accade in Messico e in Costa Rica, non voglio pensare dove ci sta tra l'altro Ladini, quindi insomma diciamo che questo è importante. Però io non vorrei lasciare spazio al mio fomento, alla mia rabbia, oggi veramente sono infiammata perché insieme a Santiago Maldonado ieri a me mi sono venuti in mente tanti compagni solidali, tante compagne solidali e quindi poi insomma io a chiusura vorrei anche fare un piccolo cappello su questo, sull'importanza della solidarietà e il coraggio di questo, perché quello era Santiago Maldonado, veramente un ragazzo solidale a una causa. Perché magari qualcuno ancora non capisce, ma chi era Santiago Maldonado, perché gli è successo questo, perché c'era lì in quel momento. Era un ragazzo solidale con le sue idee, che magari non aveva avuto una militanza di partito, però sempre con un compromesso politico importante e la sua volontà, la sua consapevolezza di essere lui lo aveva portato a stare in quel posto, semplicemente espressando la sua solidarietà al popolo mapuche. Per ora non si sa come è finita, ancora le risposte le deve dare lo Stato argentino. Allora io proprio grazie a questo sito che ha fatto la famiglia, che devo dire è fatto molto bene, ci sono i video, ci sono gli audio, ci sono le testimonianze dei familiari, ma c'è anche la cronologia di quello che è successo. E allora noi intanto vi ricordiamo che allora che questa comunità, il Pulof, quindi la comunità in resistenza che viene definita Pulof di Cushamen, è una comunità molto forte, molto nota per la propria resistenza, per la propria lotta e quindi molto presa di mira in Argentina ed è la comunità da cui viene Facundo Jones Walla. Chi è Facundo Jones Walla? Facundo Jones Walla è nato come portavoce mapuche come tutti gli altri, ma poi è uno diciamo, non dico leader perché lì non ci sono leader, ci sono delle autorità che vengono poi scelte dal popolo, ma è sicuramente un portavoce importante come teorico e quindi come anche trascinatore, nel senso che poi come succede in tutte queste cose non è che tutti i mapuche poi partecipano alla lotta. Lui si è fatto distinguere insomma per resistenza, per forza, per dialettica, per pensiero e questo ha fatto sì che lui entrasse particolarmente nel mirino della repressione sia in Argentina sia in Cile. Poi ripercorrendo i fatti sentiremo il perché. E quindi, dopo varie vicende giudiziarie, Facundo Gionesuala viene rilasciato, torna nella sua comunità e il 28 di giugno viene di nuovo arrestato, tra l'altro con un giostra di accuse, pur di riuscire di nuovo ad arrestarlo, abbastanza ridicole, ma quando sono appunto i poteri forti a volere, comunque Facundo Gionesuala viene riarrestato da parte della gendarmeria vicino insomma al Rio Villegas, dove stava praticamente mentre stava effettuando un rito che è una sorta di capodanno dei Mapuche, quindi in un momento in cui stava partecipando a un momento collettivo della comunità. Il 2 di giugno viene portato, e lo abbiamo visto anche in un video, come se fosse il Chapo Guzman, viene portato a Esquel e dopo questo, diciamo, questo traslado, questo non mi viene la parola in italiano, questo trasferimento, cominciano tutta una serie di proteste, di manifestazioni, non solo a Esquel, che l'abbiamo detto è diciamo la città più grande della zona, non solo a Esquel, ma chiaramente anche nelle comunità. Il 31 di giugno, appunto, davanti alla al Tribunale Federale di Bariloche, questo perché intanto questo giudice Otranto, che è famoso per essere proprio il nemico giurato dei Mapuche, diciamo che compie una serie di passi falsi per cui si fa una manifestazione per chiedere la sua dimissione. Il primo è quindi appunto davanti al Juzgado Federale di Bariloche per chiedere non solo la liberazione di Facundo Gionesuala, 9 persone vengono arrestate, le donne sono state picchiate, insomma comunque avvengono degli scontri, una repressione molto, molto pesante. Lo stesso giorno il governatore di Chubut, Mario De Nieves, chiede un giudizio politico per appunto il giudice Otranto, che ormai per aver liberato Facundo Gionesuala nell'agosto del 2016, comunque per aver ormai così passato il limite che non viene più reso credibile. Il primo agosto si realizza un violentissimo operativo nella comunità appunto di Cushamen. Violento perché vengono veramente sparpagliate una quantità di forze, appunto vi ricordiamo le comunità sono piccole comunità in mezzo al nulla, quindi insomma non è che c'è tanto da stare a battere e sono comunità veramente molto piccole, quindi insomma era quasi un numero superiore a quello degli abitanti con la presenza appunto di Pablo Nocedi, che insomma è un altro elemento notevole di questo insomma dei personaggi, degli attori in gioco. E il secondo in importanza del Ministero di Sicurezza, Patricia Bullrich, la ministra di sicurezza, e lui, diciamo che è il vice della Bullrich, lui perché... che già scusa aveva teorizzato un anno prima che quello che chiedevano i Mapuches non era un diritto costituzionale come si può interpretare. Invece, lui già diceva questo non è una teoria, scusate, la teoria di Nocedi diceva un anno prima in un informe che lui doveva dare del suo ruolo, no? Perché il capo del gabinete del Ministero di Sicurezza diceva quello che richiamano, che vogliono, che chiedono i Mapuches non è un diritto costituzionale, è un reato penale, è un reato federale. Questo già è la teoria che lui ipotetizzava un anno fa, quindi con questa mentalità arriva. Stiamo parlando della stessa persona, se non sbaglio, che aveva fatto l'avvocato di Miguel Echecolás, un altro genocida tremendo, famoso proprio. Echecolás fa mettere... Per avere un'idea, no? Lui aveva fatto l'avvocato di Miguel Echecolás, un altro genocida che era il capo della polizia della provincia di Buenos Aires durante la dittatura militare argentina. Di questo personaggio stiamo parlando, importantissimo in questa vicenda. Lui diceva che non era in quel giorno della repressione, che non era stato in quei giorni. Tanti testimoni, anche dei compagni e delle compagne, soprattutto Mapuche, hanno detto ha parlato con noi il giorno prima. di essere successa questa, esatto, repressione. Ha parlato, sì, con, sì, noi, sì, ci ha minacciato a noi. Un giorno prima il giudice Otranto non voleva fare l'incrocio tra le diverse linee telefoniche perché lì si poteva vedere o si poteva sapere come lui, chiaro, era in contatto con Nocetti, per esempio, e con tanti altri. Ecco, anche perché questo è un modo pure della Burrick, di cui poi si è chiesto a gran voce le dimissioni, di sporcarsi le mani. Quindi diciamo, il primo d'agosto, alla presenza appunto dei Pablo Nocetti, si entra tremendo operativo nella comunità di Cushamen, la polizia spara, questo succede sempre, non c'è una volta che la polizia non spara, la semplice differenza è sparare le palle di gomma o i proiettili veri. Ma insomma, anche questo non è che se ti arriva una palla di gomma in faccia non ti apre la faccia in due, insomma, e difficilmente vengono sparate in aria, ci sono bambini feriti. Abbiamo parlato tanto poi dei feriti in questi, sì, scopi. C'è questo protocollo, no? Che indica le forze come, e questo è triste di dirlo, come manco devono fare questa repressione, esatto, però neanche rispettano questo protocollo, no? Come dicevi tu. Quindi la gendarmeria torna a sparare, prima sulla strada, poi entra nel territorio e rincorre questo gruppo di resistenti formato appunto da solidali e da compagni Mapuche fino a Rio Chubut. Qui io vorrei dire la prima cosa che è risultata strana e che ci ha sottolineato Soraya nell'intervista in questi ultimi giorni. In Patagonia fa freddo. Fa un freddo cane, d'inverno si arriva a meno 20, c'è la neve, i fiumi gelano, i laghi gelano, anche i fiumi gelano. In quel momento appunto l'acqua del fiume non è particolarmente alta, Santiago non sa nuotare, tanti attraversano il fiume, Santiago non ci riesce, e testimoni vedono che lui viene preso e viene caricato su una camionetta. Qui non si sa più niente di Santiago. Col tempo cominceranno ad uscire... allora intanto le prime cose sono state che all'interno della stessa gendarmeria si crea della tensione di cui non c'è stato particolarmente narrato il perché, ma che già rende l'idea che probabilmente c'è un gioco da soldati semplici a riuscire a non finire nei guai, anche perché poi di solito quando il ministro finisce nei guai manda tira dal ponte un poliziotto, ma anche da lì non è che so quello che non voleva fare Bullrich dal primo momento. Lei diceva: io non voglio buttare dalla finestra un gendarme, mi fido, non posso credere, esatto, che 40 gendarmi dicano una bugia. Quella è l'idea, mi sembra, no? Mettersi d'accordo, esatto, precisamente, esatto, su questo è successo. Secondo, appunto, con il tempo cominciano a venire fuori non solo, ma testimonianze anche dei giovani compagni Mapuche che testimoniano, che raccontano di averlo visto salire su una camionetta, ne sono sicuri, di aver sentito degli spari. Esce un video dell'operativo del 1° di agosto 2017, giorno in cui Santiago sparisce, dove si vedono dei militari, dove si vede un graduato che dice: scoperta, ovvero sparate, fucile, scoperta. Giusto. Sarebbe il fucile, quindi incita a sparare nella misura in cui si vedono già alcuni dall'altra parte del fiume, quindi non si capisce bene. Ma adesso, senza dare troppo spazio a cose ormai passate, devo dire che le altre cose curiose che succedono sono, per esempio, appunto tutti quegli operativi, quindi azioni di polizia per le indagini, che ricalcano un po' quella che è la teoria di Otranto. Quindi che si dice? Si vanno a fare degli operativi mentre si continua a dire: guardate che non sta qui Santiago ce l'avete voi. Quindi non si capisce perché si continuano a fare operativi in quel fiume, si distruggono case, si va a cercare nelle case dei compagni Mapuche, che non si capisce perché dovrebbero far sparire un loro solidale. Addirittura si va a fare una perquisizione a casa Maldonado cercando del sangue, e credo che questo sia un affronto piuttosto grave, visto anche che la famiglia Maldonado ha sempre parlato in modo pubblico, assolutamente pubblico, o tramite Sergio Maldonado o tramite il loro avvocato. E quindi si comincia a venire a galla questo disegno perverso della desaparizione di Santiago Maldonado, nel senso che se è vero che il giudice, di cui adesso mi sfugge il nome, che ha preso adesso al posto di Otranto, che ha preso adesso già la, ti faccio sapere, che ha preso adesso la indagine, sì, che è in carico adesso, che è in carico adesso, comunque cerca di diciamo di far così una farsa, e quindi di andare a revisare le camionette della polizia, che sono delle gendarmeria, che sono già state prontamente lavate. Viene trovata però un braccialetto che potrebbe essere che potrebbe risalire appunto a Santiago Maldonado, e comunque succedono cose piuttosto strane. Allora, ah, ok, niente, sono andata indietro comunque. Guillermo Cheral. Ah, Cheral, okay. Guillermo Cheral con doppia Guillermo L. Guillermo Cheral, che tra l'altro sappiamo essere un compagno di studi di Macri. Ecco, insomma, quindi non è che questo proprio ci dia delle garanzie, ma come non ce l'avrebbe date comunque, non è questa la giustizia che ci appartiene. Quindi, diciamo, molto prima che il corpo di Santiago Maldonado venga trovato, il giudice Otranto comincia a far girare la voce che tanto Santiago è morto, ancora prima, già da un mese fa, e vi ricordo Santiago è scomparso il primo agosto, già da un mese fa qualcuno cercava di infiltrare, di far passare la voce che Santiago era morto. Allora, voglio dire, abbiamo dovuto dirlo anche da questa radio, e l'abbiamo detto tutte le volte che qualcuno è scomparso nelle mani dei poteri forti, l'abbiamo detto per i 46 di Rozzi Napa, l'abbiamo detto per Santiago, tutti noi abbiamo avuto il sentore che Santiago era stato ucciso, che non sarebbe riapparso, ma la nostra impressione è diversa dalla verità e da quello che bisogna gridare al mondo. Per esigere giustizia bisogna rifiutarlo, perché Santiago noi lo vogliamo sapere che è morto, vogliamo sapere che è lui. Perché se no avalliamo appunto le tesi di personaggi che non ci appartengono. E non si può accettare che chi sono i responsabili della sua sparizione, perché lo Stato, stiamo parlando del potere esecutivo, no, attraverso il Ministero di Sicurezza, anche la giustizia con queste vicende, no, e come fa, diciamo, l'inchiesta di questa forma, è il responsabile. Quindi non si può accettare che chi è stato il responsabile, secondo tutti i testimoni, sia chi ti dice, senza sapere nulla, senza le prove, no, prima di qualsiasi confermazione, che Santiago Maldonado già è morto. E per questo si dice lo Stato responsabile, perché così ha lavorato la giustizia o non ha lavorato, perché il governo, di nuovo dal primo momento che Santiago se n'era andato a Cile, che Santiago era stato ucciso per un altro artigiano, che Santiago era stato, aveva avuto delle questioni nella comunità, quindi erano stati gli stessi, che si era visto in una provincia distante a migliaia di chilometri, invece di almeno proporre una serenità alla situazione e veramente predisporsi fino alla famiglia per cercare le risposte, sempre cercando o tentando delle probabilità, che è successo questo, che è successo l'altro, la prensa al suo fianco, no? La stampa, certo, la stampa è serva, questo proprio al suo fianco. E allora, insomma, adesso io salto un po' di passaggi, perché poi invece sono molto dettagliati giorno per giorno tutto quello che succede anche a livello di cronaca, di provocazioni sul sito della famiglia. Ricordiamo che poi a livello di tribunale il giudice decide che gli operativi di investigazione che verranno fatti nella comunità saranno accordati, e verrà avvisata la famiglia e il suo legale, e verranno concordati con la comunità. L'ultimo operativo prima di questo in cui è stato ritrovato il corpo è stato un operativo spropositato, ne abbiamo sentito i racconti, più di 300 effettivi, elicotteri, droni, cani, guardie a cavallo, gommoni e canotti per percorrere il fiume. Peccato che questo operativo viene applicato alle 5 di mattina senza avvisare né la comunità né la famiglia Maldonado. Sergio Maldonado viene avvisato da una telefonata di un comuneo della comunità, che gli dice: guarda, sono le 5:30 di mattina, qui sta arrivando l'esercito, corri, perché non sappiamo che cosa succederà. Perché c'è bisogno di controllare questi operativi? Perché, parole di Sergio Maldonado, oggi tengo miedo che lo tirino al rio, oggi ho paura che lo tirino nel fiume. Sergio Maldonado dentro di sé sa che Santiago è nelle mani della gendarmeria, e che quindi quell'operativo così grande potrebbe nascondere il fatto che il corpo venga messo lì per finalmente dire lo abbiamo trovato. In un posto dove si erano fatte 3 perquisizioni prima. In cui già erano state fatte le perquisizioni, e in cui intanto le situazioni climatiche hanno fatto sì che piano piano il fiume si congelasse. E in un posto, di nuovo, che è a 300 metri controcorrente. Esatto, nel senso questo che non è poco. Il posto dove ha cruzato il rio, dove doveva attraversare il fiume Santiago insieme agli altri, era 300 metri più a valle di dove è stato trovato il corpo. Dopo questa, evidentemente il sentore del fratello di Santiago era chiaro ed era giusto, perché è molto strano che nell'operativo dell'altro giorno, appunto, il fiume si congela con 40 centimetri di acqua, e già sono stati fatti due operativi per cercare Santiago. Il fiume si congela. Nell'ultimo operativo il fiume si scongela, il livello dell'acqua è di 2 metri, quindi tu non hai trovato un corpo con 40 centimetri d'acqua, riesci a trovarlo con 2 metri di acqua. A 300 metri arriva, cioè più su, quindi controcorrente, come se Santiago avesse il potere di fluttare controcorrente. Non rispetta nemmeno le leggi della gravità. Esatto, cioè proprio le fuori da ogni logica. Leggi naturali, sì. Esatto. E soprattutto, diciamo, accanto a pochi metri, devo dire, credo, dalla comunità, dal Pull Off in Resistenza, c'è un'altra comunità. Mi pare che si chiama del Rio Negro. Questa comunità è una comunità che non si era preoccupata delle proprie terre, perché nei decenni e nei secoli ha avuto la concessione di rimanere lì. È una piccola comunità che vede però lo stesso livello di repressione, tant'è vero che anche loro direttamente dal giudice erano stati molestati, erano stati così un po' vessati, ecco, in quell'operativo. E le due comunità usano il fiume quotidianamente, è la loro fonte di acqua, è la loro fonte di vita, come abbiamo detto tante volte, la terra, l'acqua e l'aria. Non ci sono i tubi, non ci sono gli acquedotti, per prendere l'acqua bisogna andare al fiume. Quindi nessuno nella sua quotidianità al fiume ha mai visto il corpo di Santiago. La stessa Soraya ieri ha testimoniato che il corpo fu plantato, è stato portato lì, perché 2 giorni fa lei stessa era stata al fiume e questo corpo non c'era. Allora, viene trovato un corpo e si dice che è di Santiago, perché è la cosa che viene più facile dire. Lo verrebbe anche a me, probabilmente, se non avessi seguito così a fondo questa storia avrei fatto lo stesso errore. Perché non lo dobbiamo dire? Perché sono i colpevoli che ci devono garantire che quello è il corpo di Santiago. Ve lo ripeto, nessuno di noi dopo un mese della sparizione di Santiago pensava che Santiago fosse ancora vivo, probabilmente era un pensiero nero e triste che tenevamo dentro di noi, ma nessuno di noi si azzardava a dirlo, perché vogliamo la verità, bisogna che i responsabili parlino e se carichino la loro responsabilità, ed è esattamente quello che deve succedere adesso. L'autopsia ancora non è stata fatta, la famiglia non ha avuto il permesso di vedere questo corpo, che già è una cosa abbastanza strana, nel senso che è un riconoscimento dei vestiti, dei capelli, di alcuni segni, no? di un tatuaggio, di un neo, di alcuni segni, insomma, probabilmente avrebbero potuto farglielo fare. Cosa sì, che... la famiglia non ha visto il corpo, però si sono diffondite queste esatto, foto. Esatto, è un'altra cosa che vorrei dire, la famiglia non ha visto il corpo. Alla famiglia non è stato dato il diritto di vedere niente. Invece noi a Roma, che facciamo abbastanza schifo, abbiamo visto la foto di un cadavere su un letto di obitorio. E allora non solo quella foto manca di rispetto alla famiglia, manca di rispetto a Santiago stesso, capito? Io me lo voglio ricordare sorridente, io lo voglio sentire vivo, perché quello che lui ha lasciato scorre nelle mie vene, nelle vene di noi solidali, in chi di noi è andato a fare le carovane in Argentina, in Chiapas, in Kurdistan. Questo era Santiago, uno di noi. E chi di noi vorrebbe apparire così per essere ricordato? Chi di noi vorrebbe essere schiantato in nome del nulla, mentre una famiglia chiede il silenzio, il rispetto, il tempo? Ma non perché la famiglia vive nel delirio o è traumatizzata, questa famiglia è molto attaccata alla realtà, è molto razionale, è disarmantemente razionale in questo momento, e ancora di più per questo dobbiamo... La famiglia non sta dicendo no, noi sappiamo che è vivo perché sentiamo che è vivo, loro sanno tutto meglio di noi, sentono tutto meglio di noi, e quindi io credo che il dovere nostro, se non vogliamo veramente essere dei piccoli macri neocoloniali che sanno tutto, che spiegano tutto, no? Cosa dobbiamo spiegare noi? Cosa dobbiamo spiegare noi? Che non siamo buoni a buttare la monnezza, riga. Ecco, e allora detto questo, io credo che è uno sporco lavoro, è veramente un lavoro da... non mi viene. Però è importante capire che ci sono dei motivi, esatto, umani soprattutto, di base, no? Ma anche giuridici, sicuramente è l'umanità giusto, viene prima. A questo volevo arrivare, ci sono dei motivi umani ma anche politici e giuridici per il quale noi dobbiamo rispettare la volontà della famiglia in questo. Ecco, scusa, no, mi chiamo e mi viene Rio Negro, ma invece mi sono sbagliata, perché quello è uno dei dipartimenti della comunità, si chiama Vuelta del Rio, grazie Jerry. Bene. È che qua con l'emozione mi va in palla il cervello, Vuelta del Rio, appunto anche la comunità di Vuelta del Rio, che La comunità vicina. Che la comunità vicina comunque ha detto noi. Sì, io ho sentito, almeno mi è arrivato a me un registro vocale di una compagna dell'Assemblea Permanente per i Diritti Umani che era stata lì permanentemente nella Patagonia e diceva pure questo: quella è una zona dove si passa spesso, quindi un altro elemento per dire che è impossibile veramente che questo cadavere non sia visto prima. E che siano stati loro, quando dico loro di nuovo, lo Stato, le forze dell'ordine o chi sia, che lo abbiano trovato adesso. Si passava spesso e si passa spesso, perché? Perché fa parte precisamente di queste comunità, questo fiume. Esatto, quindi diciamo che queste sono, secondo me, le cose umane. Innanzitutto, riga, restiamo umani, eh? Per favore, riga, tatuatevelo in testa, restiamo umani, eh? Chi ce l'ha insegnato? Vabbè, se no poi io qua non riesco veramente più a fare niente. E allora, restiamo umani numero uno, quindi levatela quella foto, non dovete di niente, anche non dite che avete sbagliato, però levatela, ve lo chiedo per favore. E soprattutto perché c'è un disegno perverso che vuole finire veramente con la violenza, la guerra alle comunità mapuche, perché nella misura in cui Santiago domani, stasera, quando sarà, dichiareranno che quello è il corpo di Santiago, si aprirà il nuovo capitolo di Santiago che è stato trovato lì. La nuova lotta sarà quella di dimostrare che Santiago lì ci è stato portato, perché il disegno del governo, dello Stato, perché altro che, non è governo ma è proprio tutto lo Stato argentino e tutti i suoi politici e le sue politiche, è quello di affibbiare la responsabilità a una delle comunità più forti, più trascinanti, e è la comunità che più sostiene Facundo Jones Walla, che è un personaggio assolutamente importante come emblema della resistenza mapuche. A questo si vuole arrivare, e questo è il motivo per cui bisogna stare veramente molto attenti a fare certe dichiarazioni, perché una cosa è quello che noi pensiamo, le nostre convinzioni personali, e un'altra cosa è quanto può essere pericoloso far sì che queste nostre convinzioni personali diventino l'informazione che facciamo girare. Allora, io torno a ripetervelo, perché poi ci tengo molto a chiamare Geraldine a parlare un attimo con lei. Il governo argentino e il governo cileno, ve lo torno a dire, hanno due presidenti che vanno molto d'accordo. La storia di Facundo Jones, anche se vengono da posizioni politiche diverse, perché non è che Macri è esattamente della stessa corrente politica della Bachelet. A priori no. Uno pensa, ma infatti. Affatti invece vanno molto d'accordo. La richiesta di estradizione di Facundo Jones Walla è stata un'eccezione giuridica, perché nessuno può essere processato neanche da una parte del mondo all'altra, neanche in due continenti diversi, per lo stesso reato, figuriamoci in due stati. E invece questo è quello che sta accadendo a Facundo Jones Walla. Così come ricordiamo che il Cile, l'Argentina sono state condannate per le violazioni dei diritti umani e non hanno mai pagato niente, nessuno li ha mai puniti e non è successo niente. Così come vogliamo ricordare che questi due governi non vivono di vita propria, ma sono asserviti al primo vero colpabile, vero colpevole, che è italiano, ed è Luciano Benetton, quello che ha da noi i negozi, che fa lavoro alla gente precaria, che ci fa vedere queste bellissime multietniche fotografie colorate che sono piene di sangue, raga, perché comunque, diciamo, i vestiti di Benetton sono l'1% del loro prodotto. Benetton ha gli autogrill, alle autostrade, agli aeroporti. Benetton ha, insieme a Macri, un concordato sulla Panamericana. Benetton ha 900.000 euro di ettari di Patagonia, che fanno sì che lui sia il vero governatore del Cile e dell'Argentina. Quindi Macri e Bachelet vengono dopo. Il vero primo colpevole, riga, è Luciano Benetton, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non è un caso che i compagni il 30 dello scorso mese hanno chiesto di fare dei presidi davanti ai negozi, perché noi qui prendiamo coscienza che la responsabilità è di un italiano che viene poi qua disegnato come una grande eccellenza del marketing, della produzione, eccetera eccetera. Quindi non ci caschiamo, perché non è solo una questione di presidenti, governatori e ministri, perché tutti questi sono servi di Luciano Benetton, e questo ci deve entrare bene in testa. Quello che adesso stiamo di cui bisogna stare molto attenti, appunto, oggi mi hanno già mandato una cosa devastante, lo dicevamo, il 22 si vota in Argentina, la prima foto di questo kirchnerista che con la foto di Santiago Maldonado scrive: vendicalo con il tuo voto, perché se riesce a fare anche questo, quello manco hanno detto che è morto, 24 ore sono passate da quando hanno trovato un corpo, ancora non si sa se è lui, e qualcuno riesce già a fare la propaganda elettorale sul suo corpo. Niente di nuovo, perché poi insomma credo che il 70% degli argentini sono italiani, la mappa genetica cambia poco, ma al di là di questo, questo è un motivo in più per avere l'attenzione. Sappiamo che ieri era stato convocato un corteo a cui la famiglia, le madri de Plaza de Mayo hanno chiesto di meglio non andare, meglio una manifestazione di meno che rischiare una strumentalizzazione in più, perché il momento è veramente pesante, e soprattutto perché dopo le elezioni molte delle persone che verranno elette probabilmente avranno un ruolo importante in quella che sarà l'arrivo alla verità su quello che è successo a Santiago. Dunque, questo faticosamente e con tanti travasi di bile è quello che è successo, è quello che è successo, diciamo, nelle ultime 24 ore. Sì. Ancora non ci sono novità, noi appena le avremo ve le faremo sapere. Il viaggio verso Buenos Aires è lungo e probabilmente altrettanto lunghi saranno i tempi di un'autopsia che dovrà dare un esito già scritto. Probabilmente. Sì, oggi non so perché io mi immagino che diranno che è morto affogato, chissà perché, però anche questo me lo tengo per me, insomma, nel senso che nessuno di noi si fa prendere in giro, ma le cose da fare sono chiare e sono quelle, poi le nostre opinioni, le nostre idee devono rimanere le nostre. Allora, io manderei, visto che ho parlato 49 minuti di seguito e neanche me ne sono accorta, manderei un brano musicale per poi appunto prendere Geraldine al telefono e insieme ce la faremo. E a tra poco. Allora, lui è quella che vi ho fatto sentire prima, ve lo voglio dire, perché è un video bellissimo che io vedo da ieri a loop, come se mi scaricasse, fare tutto quel riot mi servisse un po' a scaricare. Era De Violencia insieme a Tata Barahona e Star de Pie, e oggi invece adesso ci avvaliamo di un altro compagno, un altro bellissimo e bravissimo rappero che è stato anche molto solidale con tanti compagni qui. Lui si chiama Portavoce, accompagnato da Stylock e L'Otro Chile. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas, pareadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres, el de los almacenes y bazares varios que quiebran cuando invade el barrio un supermercado, el de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial, el de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos y en metros a la casa llegan, de los que hacen su viaje entran en Santiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo, el Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto donde hay menos escuelas que botillas. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren por cartel social. Cuidado con quemarse con este mensaje. Un de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren por cartel social. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile, de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrana. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. De Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el tilson se arde, cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el tilson se arde, cuidado con quemarse con este mensaje. Yeah, yeah. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Che realmente Chile sia del pueblo libre, qua siamo in Argentina, ma insomma, allora io intanto saluto una voce che ormai conoscete, che è per me fondamentale per dire cose sensate rispetto a queste storie. Ciao Geraldine, ben trovata, come stai? Ciao Marta, siamo un po' come tutti, un po' come te, un po' diciamo, non so neanche come dirlo, aspettando di sapere... di Santiago, come hai detto te, con molta prudenza e con molta delicatezza. Senti, quello, allora io parlo tanto, parlo troppo, quindi ho detto un sacco di cose, ma c'era, prima di fermarci a parlare un attimo della solidarietà, perché io so che tu volevi fare anche un punto sull'importanza di questa, ti voglio chiedere una cosa così tu mi aiuti anche a renderla più chiara, che è il rapporto con le organizzazioni dei diritti umani. Allora sappiamo che le organizzazioni dei diritti umani sono un ventaglio enorme e molto diverso. Noi militanti sappiamo quanto spesso abbiamo trovato grandi organizzazioni tipo Amnesty International che si rifiutano di assumere delle cause perché ci sono stati degli scontri, perché c'è stata una resistenza fatta anche di lanci di sassi, di bottiglie, di resistenza, di voce del popolo che si incazza e brucia. E ieri, l'altro giorno appunto, leggevamo che l'avvocata della famiglia Maldonado dice che quando c'è stato questo ritrovamento c'era anche un rappresentante dei diritti umani che si è subito lamentato di come i Mapuche siano stati aggressivi. Ecco, diciamo che quando uno per secoli vede solo la polizia entrare per sparare, poi forse gli viene un po' in automatico, ecco. Allora, non so se tu ci vuoi un po' chiarire questa questione, se pensi che sia necessario, se vogliamo fare, diciamo, due punti su questo argomento, un po' di quello che ho letto, un po' di quello che so anche direttamente delle delle nostre compagne, parlo compagne, proprio compagne, parlo femminile perché parlo di più con loro, ho più contatto con loro. Sì, purtroppo c'è questa cosa che, di quello che ho capito sul caso di Santiago Maldonado, derechos humanos, diritti umani dentro questa faccenda, ha voluto un po', diciamo, come si dice, non silenziare, ma un po' sottovalutare la vera gravità di questa situazione, un po' anche, come si dice, andando un po' sulla istituzionalità, approvando un po' anche le scelte dell'istituzione, del governo in questo caso. Sì, giustamente, perché loro si mantengono un po', diciamo, nella linea della legalità, diciamo così, e disapprovano completamente lo che siano dinamiche o forma di lotte delle comunità mapuche in questo caso. Un esempio chiaro è stato, per dire, una manifestazione ai 2 mesi della scomparsa forzata del nostro compagno Santiago Maldonado a Neuquén, dove ha partecipato anche Soraya Maicoño, che è portavoce di Facundo Uala, compagno incarcerato già da più di 100 giorni a Esquel. Che Soraya, a parte degli articoli che ho visto in giro, ho parlato con lei tra messaggi di WhatsApp, e mi diceva questa cosa, che è andata a questa manifestazione a portare la solidarietà della comunità del Tool of Resistance de Cusamen, dove si trovava Santiago, e dove scompare Santiago, un messaggio che portava anche soprattutto a nome di Facundo Uala, e dice che sia stato questo questa voglia, questo desiderio di cacciarla della manifestazione, di parte del rappresentante di Amnesty International, perché loro non prima cosa volevano come non riconoscere che Santiago solidale alla causa Mapuche si trovava in queste comunità che per loro sono violente, sono dei terroristi. Questa è la prima cosa, che loro non lo vedono in quel modo lì. Secondo, perché diceva che c'è come una divisione, che loro sostengono a Santiago l'argentino, a Santiago la persona, ma non al solidale, come che voler un po' negare che Santiago era un solidale o è un solidale del popolo Mapuche, perché loro non approvano e non condividono la lotta del popolo Mapuche come la porta avanti e Polufe Resistenza di Cusamen. Diciamo che questo purtroppo è successo anche ieri, adesso non mi ricordo il nome della persona di diritti umani, anche ieri quando è stata chiamata la famiglia al momento del ritrovamento del corpo, è arrivata questa persona di diritti umani lì a Chubut, a Fiume, e la famiglia ha espresso anche che per loro era una provocazione, una offesa dopo di tutto quello che era successo, che una persona di diritti umani fosse presente in quel momento di ieri, perché veramente era incoerente al loro comportamento in tutta questa situazione. Senti, invece appunto Santiago invece è una persona unica, non si può scindere, no? Il fatto che probabilmente invece è necessario proprio far capire quanto una persona semplice come Santiago, un artigiano, provasse un profondo senso di ingiustizia per quello che sta succedendo, no? E quindi probabilmente la difficoltà è quella di dire che in Argentina c'è una profonda ingiustizia verso il popolo Mapuche che dura da 500 anni, non da ieri. Quindi negare questo credo che sia proprio negare un'evidenza. E appunto tu mi dicevi che vorresti parlare di quanto lui fosse solidale, della solidarietà, che ti andava anche di sottolineare questo tratto umano, perché credo che sia la prima cosa di cui ci dobbiamo armare, sia l'umanità in questo frangente, oltre alla nostra rabbia, al nostro odio, alla giustizia che vogliamo. Eh sì, perché come prima dicevi te, anche lì il compagno in studio, non dobbiamo tante volte mischiare, diciamo, l'emotività con lo giuridico, no? Però mi sembra anche impossibile in un caso come questo, perché parliamo di una persona, di un essere umano come tutti noi che siamo in questo pianeta, no? Sì, la giustizia del popolo Mapuche, come ho detto prima, che va avanti oltre 500 anni, non solo in Argentina, anche e soprattutto in Cile, perché lì la situazione è sempre peggio di quella che si vive in Argentina. Per me, a me mi viene di parlare di Santiago, perché anche noi, tu lo sai, siamo parte di una rete internazionale in solidarietà al popolo Mapuche, della quale anche tu, Marte, sei parte, e gran parte di noi siamo parte qua in Italia, in Hamburgo, a Oslo, a Ticino, e sé che noi, a parte di mettere il nostro buon senso di giustizia, di libertà, che legittimamente chiede questo popolo, mettiamo anche tanto cuore. Io pensare che questo che succede a Santiago può succedere a qualsiasi di noi, perché questa è la verità, perché noi tante volte, no, io parlo del popolo Mapuche e so che anche altri compagni che sostengono altre lotte internazionalista vanno anche in altri territori. Noi sostenendo il popolo Mapuche tante volte ci capita di andare in territorio Mapuche, e io pensare che a uno di noi può succedere questa cosa come è successo a Santiago è veramente inaccettabile, è veramente anche inumanamente impensabile. Io a Santiago non l'ho conosciuto personalmente, però lo vedo in ognuno dei miei compagni e compagne che sono parte di questa rete. Il fatto che è una persona che a cuore aperto ha deciso di quello che sono, non era la prima volta che era in questa comunità, in questo lof di Cusamen, ha deciso di portare il suo sostegno disinteressato, a cuore aperto, per una causa che lui, così come noi, consideriamo legittima. Penso che soprattutto nei giorni di oggi le persone non godono di questa, non godono di questa generosità e non godono nemmeno di questo turismo, perché ogni volta, ogni giorno le persone stanno diventando più individualisti. Quindi avere una persona come Santiago, che non sappiamo ancora o non vogliamo ancora dire che fine ha fatto, perché è sempre più doloroso, che ha lasciato la pelle, che ha lasciato la vita, come altri, come hai detto tu prima, come altri compagni che sostengono diverse lotte, è veramente terribile. È terribile, però allo stesso tempo è ammirabile. È ammirabile, io li ringrazio come te della sua generosità, perché lui ha dedicato a un popolo che noi amiamo tanto el amor per la giustizia, che non danno tutti. E per quello continueremo a dire tutti i giorni che siamo fieri di lui, e che siamo da qua lontano, perché siamo lontanissimo, insieme a questa famiglia fortissima, insieme a questa famiglia che, come dicete, che purtroppo è razionalmente ha capito tutto dall'inizio, e dire che da lui dobbiamo prendere un esempio, ognuno di noi deve prendere un esempio che vale la pena sempre dare in queste lotte, qualsiasi lotte che noi scegliamo, dove pensiamo che possiamo portare qualcosa del nostro cuore, con le nostre mani, con le nostre forze, sarà sempre valido. Per quello io ci tenevo a dire che noi, Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, lo sai bene, siamo stati dal primo momento insieme a lui, e seguiremo insieme a lui questo. Grazie Geraldine, io ti abbraccio fortissimo da qua giù per quanto lo posso fare, spero di rivederti presto. E io ti chiedo scusa per il momento, ma no, non devi chiedere scusa di niente, sono giorni pesanti. Poi l'altra cosa che volevo anche precisare, Marta, che qua ho visto anche in giro, a parte di tutte queste notizie che stanno girando, il fatto di come si dice, di che Santiago era anarchico, e questo non conta, questo non vale, perché abbiamo visto in qualche manifestazione, gli anarchici, perché lui era anarchico. Noi come Rete Internazionale, noi ci teniamo a dire, noi siamo lontani e non ci identifichiamo con nessun partito politico, con nessuna bandiera, con nessun, diciamo, non ci schieriamo, perché per noi questa è una cosa di umanità. E sentire tante volte, non lo sosteniamo perché era anarchico, perché noi siamo, no, penso che no, che sto plenamente sbagliato, no? Noi dentro della Rete Internazionale, che non vogliamo alzare bandiera politica mai, anche per questo che sta succedendo, che tu hai detto prima, che c'è un partito già in Argentina che sta mettendo fuori delle foto con la faccia di Santiago, quando ancora non sappiamo cosa è successo a Santiago, quando non abbiamo neanche la sicurezza, la certezza di che cosa è successo a Santiago, per fare campagna elettorale, stanno già facendo con la faccia di Santiago la sua campagna in Argentina, perché il 22, come hai detto, ci sono le elezioni. Questo veramente fa schifo, questo veramente è da ripudiare. E questo, per quello che dicevo prima, no, non c'entra niente se Santiago era anarcho-comunista, libertario. Ragazzi, a tutti i compagni, qua era una persona di cuore e basta, che ha dato tutto per questa lotta, e che comunque in questo momento che si sta cercando di, come dicevete, di aspettare un'autopsia per avere la certezza se si tratta di Santiago, rispettare il dolore della famiglia e rispettare la sofferenza di chi in tutti questi giorni hanno seguito a Santiago. E quindi io volevo dire questo, di non giocare, e lo che ho detto te, compagni e compagni, di non pubblicare, non condividere queste foto che si stanno girando, perché se no facciamo il gioco di chi vuole speculare con la vita di Santiago. Grazie mille Geraldine, io insomma giovedì ne torneremo a parlare, tra l'altro appunto le prossime ore saranno abbastanza importanti per riuscire a capire cosa verrà fuori e soprattutto come metteranno le cose, perché questo sarà poi il passaggio importante. Quindi noi ci risentiremo presto, io ti abbraccio forte, ti ringrazio ancora tanto. Io ti abbraccio a te ancora una volta per il sostegno alla lotta popolo Mapuche, così come alla lontana abbraccio la famiglia di Santiago in nome della rete internazionale. E niente, come hai detto te, saranno importanti, tu l'hai detto, nessuno ci mette il dito in bocca, perché ci diranno un sacco di cose, ma sappiamo bene purtroppo chi è stato. Un abbraccio, grazie ancora. Un abbraccio anche a voi, grazie. Ciao, ciao, ciao. Geraldine, ciao. G. Aha. Why kill? Watch it, catch it, yo. Watch it, we're from the shores. Ha. Ma putin' piede che era io. Ma putin' piede che era io. Ehi, ma putin' piede che era. Mi gente la guerra. A mulle per far defender nuestra terra. Ma putin' piede che era io. Ma un uomo non è un sasso che abbandonato nel fiume diviene ciottolo, identico ad altri ciottoli, levigato dalla corrente e disperso nella memoria dei flutti. Un uomo non è un pesce da intrappolare nella rete, che quando lo ammazzi sale a galla alla mercé degli uccelli rapaci. Un uomo non è una foglia che in autunno ingiallisce e, spentasi in acqua, gira vorticosamente nel maestro e di lei non si sa più nulla. Santiago è la stella che brilla alta nel cielo e ti indica la via maestra. Santiago è l'albero rigoglioso che germoglia ad ogni infame tentativo di abbatterlo. Santiago è la voce libera che non si può zittire nel disumano silenzio fascista. In queste ore di mistificazioni poliziesche e redenzioni inique, gli aguzzini sibilano come serpi assassine e i media sciacallano per qualche spicciolo il nome di Santiago. Reclama con filo d'oro la parola libertà. Ma Putin bene che era, ma Putin bene che era. Vamos darle buen yo pa defender nuestra tierra. Ma Putin bene che era, ma Putin bene che era, ma Putin bene che era. Vamos darle buen yo pa defender nuestra tierra. Why kill? Lito Calfunao, hey. Radio Patagón, pa' toda nuestra gente. Calful you can, Oscar, aquí estamos todos los peñi. Con Ewen, Mapuche en pie de guerra pa' defender a nuestra gente, pa' defender nuestra tierra. Por supuesto, hermano, amulepe. E allora, faticosamente, perché insomma, faticosamente, andiamo a chiudere questa trasmissione, un po' in ritardo, io mi scuso con Mezzede, sa, qui abbiamo rubato 10 minuti, ma insomma pensavamo fosse importante in una giornata come questa. Io tra breve metterò questa trasmissione sulla pagina di Radio Onda Rossa, insomma poi la farò girare, se insomma, perché ritengo che forse abbiamo fatto qualcosa di buono anche questa volta. E allora alle 18:10, come sempre, salutando tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà, aggiungo, Santiago, come diceva Geraldine, siamo veramente fieri di te. Un abbraccio e a giovedì prossimo. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Pacto viscum donna. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana.